Fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte? Fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi? Non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani. Radio Possum, ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di antispecismo, liberazione animale e della terra. Indio! Non si può entrare qui! Fuori! Prima o poi vi sparo! Prima o poi vi sparo! Allora, quando sono le 22:04 minuti, mentre qualcuna qui tenta di rompere i microfoni, questa è Radio Possum, in trasmissione antispecista. Di che parliamo questa sera? Questa sera racconteremo un po' come è stato il corteo a Bergamo, corteo nazionale contro l'apertura degli allevamenti di visone. E poi sentiremo un attivista di Firenze che ci parlerà del corteo del 15 giugno. E basta. Va bene, allora, poi tu non hai niente da dire, qui non c'è manco il microfono, va bene, perfetto. E niente, allora lasciamo finire la canzone e poi torniamo in onda. Torniamo in onda. Ah, torniamo in diretta e insomma facciamo un piccolo report del appunto del corteo di cui parlavamo prima. A Bergamo questo sabato c'è stata una manifestazione contro l'apertura di nuovi allevamenti, appunto ne abbiamo parlato anche nelle settimane scorse, nuovi allevamenti di visoni. Ci sono un paio di allevatori, insomma, che di agricoltori allevatori intorno a Bergamo che appunto hanno questi allevamenti per lo più di bucche e già che c'è la crisi non riuscivano più a vendere, non riuscivano più a fare introiti, hanno ben deciso quindi di cambiare il loro tipo di allevamento e di far arrivare questi visoni per appunto modificare il loro ingresso economico. E al momento ancora chiaramente non sono ancora partiti, però ci sono le pratiche aperte e gli allevatori stanno chiedendo al comune di poter modificare il loro tipo di allevamento e di introdurre le gabbie all'interno delle loro stalle. E niente, c'è stato questo corteo partecipato da 150 attivisti provenienti un po' da sia da Bergamo che da varie parti del nord Italia. È un corteo comunicativo che ha attraversato la città di Bergamo Bassa volantinando e insomma cercando di far portare in città questa problematica, nel senso che fino appunto a sabato i presidi e i cortei erano stati fatti prevalentemente nelle zone appunto limitrofe di questi allevamenti e all'esterno, comunque sulle statali, in giro così, per appunto portare proprio davanti ai luoghi quella che era la problematica o la contestazione per questa possibile conversione di animali. E questa volta invece gli attivisti hanno deciso di portare all'interno della città di Bergamo questa problematica e di spargere appunto la voce anche a tutta la cittadinanza. E questo corteo ha attraversato appunto il centro storico, c'è stato un volantinaggio, ci si è fermati davanti al McDonald's un po' a contestare, e il corteo è finito davanti al comune di Bergamo, dove appunto è stato fatto un sit-in e sono stati appunto, si è continuato a volantinare nella zona, diciamo vicino alla zona dello shopping del sabato pomeriggio bergamasco. E vabbè, insomma, questo diciamo un po' il report di quello che è avvenuto. Va bene, dai, allora grazie per il report, mettiamo un pezzo e poi continuiamo con la trasmissione. Questi sono i Kalashnikov con Nere sono le cinghie dei fucili. Ecco, ti abbracciai sotto un cielo di fango, mentre le bombe cadevano e i soldati. E allora sfumiamo la canzone, siamo in diretta con un attivista. Pronto, ci senti? Sì, ciao, sono Damiano, ciao Marco. Ciao Damiano. Senti, ti volevamo chiedere innanzitutto, ci racconti un po' come nasce quest'idea. Tu facciamo una premessa: sei tra gli organizzatori, la vera bestia, il tuo gruppo, diciamo il tuo coordinamento di Firenze, del corteo del 15 giugno contro i mattatoi, no? Se ci spieghi un po' come nasce quest'idea del corteo, e come si svilupperà, insomma, ci fai un po' una presentazione. D'accordo, allora io mi chiamo Damiano, sì, rappresento la vera bestia.org e l'associazione No Cage, che sono due dei tre promotori del corteo assieme a Lida Firenze. L'idea nasce perché sabato 15 giugno in tante città del mondo avverrà un evento congiunto che è la manifestazione per la chiusura dei mattatoi, diciamo contro i mattatoi, e avverrà a Istanbul, a Boston, a Montreal, a Parigi. Ci è stato chiesto di organizzare qualcosa qui in Italia e noi abbiamo deciso di organizzare questo corteo, un po' come abbiamo già fatto in passato per le pellicce contro McDonald's e molte altre volte, e il corteo seguirà più o meno lo schema che ha sempre seguito. Ci sarà un concentramento alle 13:30 in Piazza della Repubblica, poi ci scorreranno le immagini del maxi schermo, come abbiamo fatto gli anni scorsi, immagini molto forti ma che sono volte a far vedere ciò che non fanno vedere gli altri, far capire alla gente cosa è successo al loro pasto quando era un animale, far capire alla gente che tra il cane e il maiale non c'è così tanta differenza, anzi non ce n'è quasi per niente, hanno la stessa vita emotiva, capacità di relazionarsi, di compiere azioni, di far capire anche cose che sembrano banali, magari una persona ci ha riflettuto ma per altri non lo sono, come il fatto che il latte non nasce dalle macchinette, non esiste, come alcuni dicono, che mucche che fanno il latte così perché è la loro razza. La mucca è un mammifero, fa il latte soltanto se è ingravidata, e noi possiamo prendere quel latte perché poi ci mangiamo anche il vitello. E queste cose sembrano banali, ma nessuno sa cosa fanno davvero negli allevamenti agli animali, come vivono i polli, come subiscono mutilazioni, i maiali gli tagliano le orecchie, i genitali, insomma sono mutilazioni pesantissime, alle galline tagliano il becco con la lama incandescente. Tutto questo sarà fatto vedere nel maxi schermo. Questa manifestazione è antispecista. L'antispecismo è il movimento culturale, diciamo, filosofico, che si oppone a alcune pratiche della morale corrente, come il razzismo discrimina in base alla razza o il sessismo discrimina in base al sesso. L'uomo sta compiendo una discriminazione fortissima sulla base del concetto di specie, che non è poi così distante dal concetto di razza. Spesso le persone confondono cosa sia l'antispecismo e cosa sia l'animalismo, un po' perché c'è un po' di confusione generale, lo vorrei chiarire a questo punto. L'animalismo dovrebbe essere amare tutti gli animali, non soltanto il cane. L'antispecismo non è soltanto amare tutti gli animali, ma è una cosa fondata filosoficamente. Il ragionamento di essere antispecisti è che se è ingiusto il razzismo, è ingiusto il sessismo, è ingiusto anche lo specismo. Dunque si creano molti problemi se persone che sono contrarie agli immigrati, sono omofobe, sono razziste, sono sessiste, si dichiarano antispeciste. Cioè andrebbe a far crollare proprio quello che è l'antispecismo, che ripeto è una cosa non empatica come l'animalismo, un sentimento verso l'animale, ma è un discorso molto più profondo, e su questo punto c'è bisogno di fare molta chiarezza. Ogni manifestazione poi si fonda su principi che chi l'organizza vuole manifestare. Questi principi sono espressi nel nostro comunicato e pensavo di andarli a leggere, ecco. Sabato 15 giugno in tantissime città del mondo, Istanbul, Boston, Montreal, Parigi e molte altre, si terranno manifestazioni per la giornata internazionale contro i mattatoi. L'Italia aderisce all'iniziativa organizzando un corteo nazionale a Firenze. L'evento vedrà l'ausilio di un maxi schermo mobile di 12 metri quadrati su cui verranno proiettati filmati verità al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla condizione degli animali in questa società. Viviamo in una società che ogni istante reifica il valore di una vita in un cartellino con un prezzo. La vita non ha un prezzo, non può avere un valore un tanto al chilo. Siamo tutti terrestri, siamo tutti animali. Ma la discriminazione, dal greco separare, che da sempre ha creato barriere mentali e pratiche, spesso non rende possibile vedere l'ingiustizia che l'uomo sta perpetrando nei confronti dei non umani, come fu per l'oppressione subita dai neri, dalle donne e anche da molti altri popoli, che tuttora persiste. I movimenti organizzatori aderenti ripudiano le logiche di sfruttamento di tutti gli esseri viventi, reputano impossibile e incoerente una giustizia separata fra tutti coloro che abitano la terra, rifiutando qualsiasi forma di fascismo o totalitarismo di qualunque provenienza ideologica verso animali umani e non umani. Provano una forma di lotta non basata sulla violenza ma sull'informazione, che è un diritto di tutti e nonché l'unica base legittima per operare una scelta, e invitano tutti presenti al rispetto di tali principi. Vivere vegano significa vivere senza sfruttamento né rinunce, ma con empatia. Significa costruire ogni giorno, fuori e dentro di sé, un mondo non solo migliore ma diverso. Un mondo in cui informazione, salute e benessere siano alla portata di tutti coloro che vivono con noi questo minuto fra mille e milioni di vite. Chi è capace di provare dolore deve essere preso in considerazione nella nostra morale. Tutti gli esseri tremano davanti alla violenza, tutti amano la vita, tutti temono la morte. Chi accetta il male passivamente è responsabile come chi lo commette. Sabato 15 giugno, tutti in piazza a Firenze. Questo è il nostro comunicato. Ok, senti, no, vabbè, a parte il fatto che diciamo condividiamo completamente tra le tante cose che hai detto, soprattutto la puntualizzazione sulla questione del fascismo e della discriminazione in generale anche contro gli umani, perché tra l'altro c'è un po' questa moda da parte di gente, diciamo genericamente di destra, di definirsi antispecista, quando l'antispecismo è una cosa che va chiaramente a cozzare contro qualsiasi forma di discriminazione, sia essa rivolta a animali umani che a animali non umani. No, ti volevamo chiedere una cosa, però, a parte questa lunga premessa che ho fatto, e questa non è la prima edizione del corteo, o c'è stata già negli anni passati? No, noi abbiamo fatto molte manifestazioni, la quarta volta del Maxi Schermo, abbiamo già fatto manifestazioni molto partecipate, come quelle che lì c'erano 2500 persone, oppure anche in seguito per Simone Righi, per gli Agnelli, contro McDonald's, e questa è la quarta manifestazione col Maxi Schermo, diciamo che sarà un bel evento, penso, come tutti gli altri. Io trovo molto importante, se no non collaborerei con la verabestia.org, che infatti, come dice il comunicato, l'informazione è un diritto di tutti ed è l'unica base per operare una scelta, e questo manca alla gente fondamentalmente. Qual è stata la risposta in generale delle persone, al di là degli partecipanti ai cortei e alle iniziative? Però voi fate comunque manifestazioni pubbliche in luoghi spesso anche molto centrali di Firenze. Qual è stata un po' la risposta della gente, delle persone che magari vengono a contatto con questa realtà? Chiaramente visivamente, poi, che è molto forte, no? In quanto non è proprio successe scene bellissime, a volte ad esempio sulle pellicce una signora ora si è spogliata dei suoi capi in pelle, del suo cappuccio, lo ha dato ai manifestanti rendendosi conto di cosa aveva finanziato e non lo sapeva, e l'ha fatto ardere in piazza dicendo che non avrebbe più comprato niente. Ci sono i video sulla vera bestia di questo, e quando succedono cose del genere è molto bello, come è bello che la gente sappia appunto quello che nessuno gli ha mai fatto vedere, perché il Maxi Schermo alla fine è come la parete di vetro di un mattatoio attraverso cui tutti possono guardare. C'è molto interesse sul fatto che l'animale non sia considerato, per me, cioè stare attenzione al cane ma non al maiale, perché l'animale è un po' lo schiavo, l'operaio perfetto, l'animale gli puoi far fare qualunque cosa, lo puoi spellare, usarne le pelli, usarne le carni, fargli tirare un carro, lo puoi usare negli esperimenti di vivisezione, lo puoi vendere come animale da compagnia, e quindi non lo paghi, lo puoi riprodurre in serie, a volte purtroppo anche modificare geneticamente, e quindi c'è il capitalismo stesso, la società basata sull'economia difficilmente senza l'animale potrebbe mantenere i suoi profitti in questa maniera. Però anche se gli animali fossero liberati, io sento dire gli stessi discorsi che si facevano quando c'erano gli schiavi da liberare. Ma se liberiamo gli schiavi sarebbe la fine del mondo. No, non sarebbe la fine del mondo, sarebbe la fine di un mondo, quello basato sullo sfruttamento. Ogni anno 50 miliardi di animali muoiono nei mattatoi e tante altre centinaia vengono uccise dalla deforestazione, e poi ci sono i pesci e tantissimi altri animali. Sono convinto che la storia un giorno guarderà con orrore al consumo di cadaveri che ha fatto la gente, così come per tanti altri usi e costumi del passato. Ci tenevo anche a dire chi erano i movimenti che avevano aderito, oltre ai movimenti organizzatori, che erano Animal Empathy, Green Riot, Animal Freedom, Animalisti Friuli Venezia Giulia, Antispecisti Pratesi, APIDA, ARA, Avapollus, CEDA, GATT, Ippoasi, Lamento Rumeno, Movimento Una, Movimento Vegetariano No alla Caccia, Oltre la Specie, Progetto Vivere Vegan, Valle Vegan, Vegetaliana, Veruns in Fur. E vorrei ringraziare anche in particolare l'azienda Probios, che da anni ci ha sempre aiutato a realizzare i nostri eventi, e insomma non è una cosa che fanno tutti, la fanno in maniera del tutto spontanea, quindi ci tenevo anche a ringraziarli. Sicuramente sarà un bellissimo corteo, e io invito tutti a venire a Firenze sabato 15 giugno alle 1.30 in Piazza della Repubblica. Ci sono anche credo 7 autobus da Ancona, Viterbo, Roma, Napoli, Bologna, Milano, e quindi insomma informatevi anche su Facebook se qualcuno volesse raggiungere. Addirittura a Roma stanno uscendo, penso, il secondo autobus, ce la fanno a riempirlo, quindi insomma prenotate sul bus romano, ecco, se sì, credete sì, nei principi espressi dal comunicato, naturalmente, se no non c'è senso. Se non sbaglio, avete costruito appunto questo corteo anche con una campagna che avete lanciato appunto da un po' di tempo, che vedo circolare molto questa campagna, che poi terminerà questa manifestazione, ma appunto questo piano internazionale mi interessava capire, è proprio una cosa che sta coordinata a livello internazionale con che tipo di riscontro ci avete dagli altri paesi? Non lo so se ci puoi raccontare anche Io in particolare abbiamo sentito i francesi, che sono stati loro a scriverci per proporci di aderire come Italia, e organizzano presidi e manifestazioni per la chiusura dei mattatoi, quindi insomma in tutte le città europee, non so la partecipazione insomma negli altri paesi. Di sicuro in Francia è successo un fatto molto grave qualche giorno fa, un ragazzo di nome Clamant è stato ucciso da un agguato razzista, era un attivista vegan, e ci sono state in questi giorni molte manifestazioni in Francia per ricordarlo, che insomma magari sarà una cosa che darà ancora più motivazione ai francesi, che io ho parlato in particolare con loro e ci hanno chiesto di organizzare, a fare un evento molto partecipato. È la giornata internazionale, è stata indetta che ogni anno il 15 giugno sia la giornata per la chiusura dei mattatoi, e quindi è la prima volta che l'Italia aderisce, e insomma faremo come sempre un bel corteo, ecco. Hai fatto bene a ricordare il caso di Méric, l'avremmo detto poi anche noi, un ragazzo di 18 anni francese, antifascista e antispecista vegan, e purtroppo ucciso da tre fascisti che l'hanno, pare, ucciso a colpi di tirapugni, insomma, vabbè. Sì, d'altro io anche pericolosa questa escalation assurda, ho visto anche Ankara oggi un poliziotto ha sparato in faccia a un manifestante, insomma, e sono cose molto senza motivo, a sangue freddo, gli ha sparato in testa poi scappando. Sì, tra l'altro pure lì la rivolta è nata a Istanbul, vabbè, poi si saranno innestate anche ragioni politiche locali, però ricordiamolo che insomma è nata per difendere almeno inizialmente un parco pubblico che doveva essere raso al suolo per costruirci un centro commerciale. Insomma, c'è una bella differenza, noi siamo un paese dove la gente si narcotizza e si rincoglionisce nei centri commerciali, insomma lì perlomeno la costruzione dei centri commerciali viene perlomeno contestata. Esatto, è un continuo di cose, anche insomma Cucchi, c'è stata la sentenza adesso che è morto perché nessuno ha fatto nulla, è colpa sua. Insomma, noi cerchiamo con queste manifestazioni di dare almeno un po' di informazione alle persone, ecco, anche con queste interviste che non tutti fanno, e ringrazio insomma la vostra radio perché insomma è sempre molto impegnata verso queste cose. Ok, grazie a te e grazie a voi tutti, e migliori auguri per il corteo, e qualsiasi cosa alla radio, e in particolare noi di Radio Possum, per qualsiasi informazione, aggiornamento e via dicendo, siamo qua, e niente, ti ringraziamo della disponibilità e buon corteo sabato. Vi ringrazio, io ci vediamo tutti a Firenze, okay. Il 15 giugno. Ciao. Un abbraccio. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Lo terrorizzato guarda negli occhi e sopprega. Fuck. das Hirn sich beruhigt, Gedankenwellen verebben. Die Seele anfängt zu baumeln und Zweifel verrecken. Wenn Musik die Ohren streiche, den Bauch ein gutes Gefühl. Dann kommen solche Zeilen raus, guck raus, draußen ist kühl. Aber in mir spür ich Wärme und Vertrauen ins Leben. Leider kommen mir manche Menschen mit Misstrauen entgegen. Aber ich kenn mich und ich weiß, wofür ich kämpfe und stehe. Und manche Sätze, wo ich heute anders denke, tun weh. Doch Entwicklung ist was Schönes und wir sind fähig zum Lernen. Trag Verantwortung wie alle, dazu steh ich sehr gern. Nehm Kritik auf kein Problem, will mich doch weiterentwickeln. Versuch auf libertäre Weise meine Reime zu kippen. Bin seit 11 Jahren am Schreiben, glaub mir, da ändert sich was. Die sich wird differenziert, dass sich verändern, zeigt das. Der Mensch seine Existenz als Vernunft begabt, begreift. Er lebt sich regt, bewegt, versteht und treift. Wie soll ich Frieden spüren, ohne nach Freie zu streben? Ein gutes Gefühl haben und all das Leid schreit dagegen. Hey, du weißt nicht, wer ich bin, und auch nicht, was ich denk, was ich glaub, was ich brauch, was ich lieb und was mich kränkt. Doch trotz allem machst du dir ein Bild über mich. Glaub mir, wer ich wirklich bin, weiß ich selbst manchmal nicht. Ich weiß nur, ich lebe Gott und jeden Tag mit den Kindern. Und dass so viele Menschen leiden und es lässt sich kaum verhindern. Ich weiß, ich lieb die Musik und dass ich meine Mutter schrecklich vermisse. Das ist echt, das bin ich, unmännlich. Und wäre das alles so einfach, wüsstest du immer noch nichts. Auch wenn wir uns nicht kennen, bin ich froh, dass es dich gibt. Denn wer wär ich schon, wenn niemand da draußen fühlt, was ich schreib. Doch du verstehst, was ich fühl, denn du fühlst, was ich schreib. Ich hab viele Fehler gemacht und für jeden tut's mir auch leid. Und bedank mich mit dem, bei jedem, der mir verzeiht. Denn ich bin nicht perfekt, ich bin ein Mensch wie du. Und vielleicht hören mir gerade deshalb die Menschen gern zu. Doch heute trägt mich die Hoffnung und nichts betrügt meine Sicht. Ich bin glücklich, dass ich lebe und genau so fühle ich mich. Und ich hoffe, dass du dieses Gefühl in dir selbst erkennst. Denn du kannst bei anderen nur entzünden, was selbst in dir brennt. In dir brennt. Gibt es Zeiten da draußen, der Hip-Hop blieb. Der Texte schrieb, der in der Gänsehaut beim Hören krieg. Innere Trieb, zu sagen, was mit Herzen liegt. Hier sind Mike und Albino. Wie soll ich Frieden spüren, ohne nach Freie zu streben? Ein gutes Gefühl haben und all das Leid schreit dagegen. Zwischen all dem Leid strebe ich nach Glück. Und nur weil ich es nie vergesse, gehe ich ein Stück näher meinem Ziel zu. Und ihr seid dabei. Das Ventil ist die Bühne voll Wut und diese macht frei. All die Städte, wo wir spielten, gaben uns Freude und Kraft. Der Musik verbindet, sie hat uns Freunde gebracht. Das ist der Grund, warum wir reisen, immer noch Spaß dran haben. Und Spaß gibt's viel mit Mike und Dan im Wagen. Dies geht an alle, danke, dass ihr da seid. Ohne euch gäb's Albino nicht und das ist die Wahrheit. Und deshalb geh ich's an alle, die mich seit Jahren begleiten, mich unterstützen, motivieren und meinen Plan begreifen. Ohne euch wär ich eine Kerze, doch nicht fähig zu brennen. Noch grad das Feuer ist die Antwort auf die Frage, wozu lebe ich denn? Wie soll ich Frieden spüren, ohne nach Freie zu streben? Ein gutes Gefühl haben und all das Leid schreit dagegen. Allora, torniamo in diretta dopo questa bellissima canzone di Albino. Per chi la volesse risentire, è Gutes Gefühl. non so se si legge così perché non so il tedesco, però ci sono i due puntini sulle U, quindi ho fatto un tono più Gutes Gefühl. Ok, vabbè, è uguale a come l'ha detta lui comunque. Sì, solo devi essere più cattivo quando lo dici perché è tedesco. Gefühl. E vabbè, passiamo alle notizie, notizie varie, eventi. No, stasera nessun evento, solo notizie. Una, insomma, abbastanza triste, riguarda un personaggio che ricorre nella nostra trasmissione, Carlo Giovanardi, il senatore Carlo Giovanardi del PDL. Però stavolta non mettiamo musichette né cose divertenti né stacchetti musicali, perché Giovanardi parla di Stefano Cucchi. Voi sapete che c'è stato il primo grado di giudizio e sostanzialmente gli agenti di polizia sono stati tutti assolti. E Giovanardi dà la sua personalissima e alquanto squallida interpretazione della vicenda Cucchi. Prendiamo le sue foto, le sue dichiarazioni da un articolo di Repubblica.it del 7 giugno 2013. Giovanardi alla Zanzara su Radio 24 ha detto: le foto di Cucchi, quelle ecchimosi, sono derivanti dalla mancanza di nutrizione nella quale è stato lasciato per giorni. Tutti i segni, comprese le orbite negli occhi, sono il risultato della situazione in cui è stato lasciato. Delle botte degli agenti di custodia non ci sono prove. Il povero Cucchi aveva una vita segnata dall'uso e dallo spaccio di droga, era vittima della droga ed era stato ricoverato 16 volte con lesioni. Quelle foto agghiaccianti sono di una persona non curata per una settimana, senza mangiare e bere. Io ho solo espresso soddisfazione per tre poveri cristi agenti di custodia che guadagnano 1200 euro al mese e hanno vissuto 4 anni d'inferno fino a quando un tribunale li ha riconosciuti innocenti. Non hanno fatto nulla e ora festeggiano la fine di un incubo. Vabbè, non è inutile. Sì, tra l'altro sono famose anche le dichiarazioni di Giovanardi sul caso Aldrovandi, sempre alla Zanzara, in cui disse che il tappeto di sangue dietro la testa di Aldrovandi era in realtà un cuscino rosso dove era stato posizionato. E se vi potete sentire l'intervista su internet, dice anche un'altra serie di cose agghiaccianti, tra cui paragonando l'omicidio colposo, che è poi quello che è stato attribuito agli agenti che si occuparono di Aldrovandi, la stessa cosa. Lui disse: se uno fa un incidente stradale muoiono anche più persone, quindi non capisco perché tutto questo caso perché è morto un ragazzo che era pure un tossico anche in quel caso. Come al solito la tarantella è sempre la stessa, quindi c'è una recidiva, diciamo. Volevo soltanto fare due osservazioni. La prima è che Giovanardi a un certo punto dice: tra i poveri cristi di agenti di custodia guadagnano 1200 euro al mese, come se uno guadagnasse poco automaticamente, no, fosse immune da qualsiasi colpa e da qualsiasi crudeltà. Anche gli operai dei mattatoi guadagnano poco, no? Ciò non toglie che sono quello che sono. Insomma, questa sorta di quasi di classismo al contrario è veramente abbastanza squallida, ma insomma linea col personaggio. La seconda cosa e la seconda osservazione è che non è un caso, secondo noi, che Giovanardi da una parte esprima con così quasi questa irriverenza, questa forma di disprezzo della vita umana, e sia lo stesso Giovanardi che difende a spada tratta tutti coloro che sono in qualche modo legati allo sfruttamento animale e che campano sullo sfruttamento animale, sulla tortura, sulla sofferenza e sulla morte degli animali. Insomma, a conferma che l'antispecismo sempre di più dovrebbe riguarda effettivamente nella vita di oggi sia forme di discriminazione nei confronti degli esseri umani che nei confronti degli esseri animali. Volevo spendere due parole per... Non si è sentito? Non si è sentito l'inizio. No, io volevo spendere due parole anche su un altro personaggio della politica italiana e romana, l'ex sindaco Gianni Alemanno, che a pochi giorni dal ballottaggio si è scoperto antivisezionista, animalista, ed ha tappezzato Roma con manifesti in cui appunto per in qualche modo sancire una distanza tra lui e il suo oppositore politico, rivendicava quanto per lui avesse valore la vita animale, umana, spodoratamente, senza considerare appunto chi è Alemanno, cioè, e anche quello che ha fatto a Roma nel corso degli ultimi anni, diciamo, in cui anche la protezione animale è stata abbastanza smantellata. Non ci interessa questo, però è veramente sottolineare un'ennesima ipocrisia che già avevamo visto durante la campagna elettorale nazionale, in cui tutti si facevano fotografare col cagnolino, il gattino di turno. per non parlare poi della connivenza che ci sta tra la giunta Alemanno e tutti gli sgherri vari, palazzinari, tutto, diciamo, quello che è il l'orbita che gira intorno ad Alemanno e al suo staff. Basti pensare appunto alla gestione dei rifiuti, all'AMA, o appunto a personaggi come che sopravvivono, è vero, tra i sindaci, però ci sono dei sindaci che si sono messi più in mostra di altri per essere conniventi con certe operazioni come la cementificazione della periferia romana e di tutto l'agro romano. E quindi diciamo che Alemanno è proprio l'ultima persona che dovrebbe dare lezioni così di etica e di rispetto, di così. Sì. Vabbè, dai, questa la dedichiamo ad Alemanno, a Maggio Manardi e a tutti gli altri, sperando che un giorno li spazzeremo tutti via ed è Free the Land. E allora torniamo in diretta con quelle che sono le prossime notizie che vi andiamo a leggere. Ricordiamo che oggi è la giornata mondiale internazionale in solidarietà con Eric McDavid, Mary Mason e altri e altre prigionieri anarchici, ecologisti radicali, antispecisti di lunga data. Ricordiamo appunto che stiamo parlando di persone che sono state condannate negli Stati Uniti a decine di anni di carcere per una ventina per cose diverse, e in seguito questa giornata era stata indetta per un altro compagno che è Jeff Lewerts, detto Jeff Free Lewerts, e anche lui arrestato e condannato per l'incendio di alcuni SUV a 20 anni di carcere, però adesso ha finito di scontare la sua pena e quindi è rimasta la condanna invece per queste altre due persone. E ci interessava leggervi le dichiarazioni di Eric e di Mary che abbiamo trovato su Informazione nel post giornata internazionale di solidarietà con Eric McDavid e Mary Mason e altri prigionieri e prigioniere anarchici e anarchiche di lunga data. Allora, Mary, queste sono le parole appunto di Mary. Quest'anno sto rielaborando molto la mia storia. Probabilmente è solo una funzione di tutto questo isolamento e tempo trascorso in spazi confinati. Nella mia precedente vita libera, se mi trovavo di fronte a decisioni difficili o tristezza, traumi o problemi, andavo nei boschi a camminare o a nuotare in uno dei miei adorati grandi laghi per trovare sollievo e concentrazione. Il mondo naturale è la mia fonte di forza e consolazione. È stata dura non essere in grado di camminare sulla terra, di toccare un albero o di vedere il cielo senza delle sbarre di metallo in mezzo. La prigione urbana era un livello di rimozione della vita, ma questa è totalmente su un altro livello di intensità. Per cui è stata una gioia essere in grado di sentire di così tante persone che lavorano attivamente per questa terra, essere ispirata da tutti e tutte voi e ricevere il conforto di sapere che, anche se non posso più camminare con voi, state continuando il viaggio in avanti. Questa è la mia consolazione adesso. E queste invece sono le parole di Eric. 7 anni, non posso dire che sia facile mettere queste parole su carta, che non mi faccia male guardare indietro a questi passati 7 viaggi intorno al sole, con il processo dei tribunali che continua e le fasi finali d'appello. La sua fine deve ancora mostrarsi all'orizzonte, nessuna illusione, ma allo stesso tempo danzo ancora con i desideri. Amore e gioia si sono anche fatte vedere. L'impressionante supporto da tutta la terra. Vorrei poter ringraziare ogni singola persona o gruppo che ha scritto e mi ha supportato in questo viaggio. Le vostre intenzioni, qualunque forma abbiano preso, mi hanno aiutato e nutrito e ricordato chi sono. E una situazione ambiente si sono chiariti, smembrati, rimodellati. Insieme a tutta la solidarietà della comunità sono grato del supporto di amici e della famiglia, di come sono stato sostenuto dall'amore e dalla pazienza appassionata della mia partner. Ti amo, Jay, sei la mia gioia. Non sono in grado di esprimere adeguatamente i miei sentimenti di rispetto e solidarietà per tutte le persone che danzano con la spietata repressione in tutto il continente, rimanendo fedeli al loro cuore. Per le persone che danzano con i gran giurì, aspettate un'occasione migliore. Questa è una delle poche circostanze in cui il tempo è dal lato degli oppressi. Questo clima culturale, il sentiero, non è semplice in nessun modo. Questo rende ancora di più importante trovare quei modi unici, sempre diversi, bellissimi e sostenibili di aiutarci e nutrirci gli uni con gli altri. Chiudo augurando che ognuno e ognuna di voi continui ad esplorare e a guarire i nostri cuori e comunità, che possiate trovare lo spazio e il tempo nel prossimo anno per far giocare le vostre menti con nuove e sicure capacità comunicative e i vostri corpi con l'autodifesa. Silenzio, zitti mio, le guardie. Allora, altra notizia che prendiamo da informazione.info del 5 giugno 2013, quindi non nuovissima. Regno Unito a difesa dei vivisettori, arriva il reato di stalking aziendale contro la campagna Shaq. Il 2 febbraio 2012, durante un Career Day per studenti universitari presso l'Imperial College di Londra, si è tenuta una manifestazione di protesta contro uno degli espositori della giornata, HLS, Huntington Life Science. HLS è il più grande laboratorio di sperimentazione animale a contratto d'Europa, una struttura in cui la crudeltà verso gli animali è ormai stata documentata in molte occasioni. Shaq, Stop Huntington Animal Cruelty, è una campagna di protesta internazionale finalizzata alla chiusura di questo laboratorio. Nel 2007 HLS ha cercato di ottenere ulteriore protezione legale, ottenendo un'ingiunzione da parte dell'alta corte inglese al fine di limitare le attività dei manifestanti. La possibilità di ottenere ingiunzioni contro qualcuno o qualcuna attraverso disposizioni da parte di un giudice nasce con l'intento di proteggere le persone da molestie e da reati di stalking, ma al momento vengono abitualmente utilizzate per proteggere le imprese attraverso il controllo e la repressione dei gruppi di protesta. Queste ingiunzioni sono applicate a tutti coloro che protestano per la stessa causa, a prescindere dalle circostanze individuali. Con HLS questo significa che chiunque ha conoscenza di questo stato speciale garantito al laboratorio, ma porta comunque avanti proteste contro la vivisezione presso questa struttura, è un potenziale o una potenziale imputata. Gli individui possono divenire oggetto di un'ingiunzione dell'alta corte non appena essi frequentano la loro prima protesta, a prescindere dal fatto che l'ingiunzione sia stata concessa molti anni prima che una persona sia coinvolta nella campagna. Le prove di molestie e stalking utilizzate in applicazioni o ingiunzione non hanno bisogno di essere provate e non è nemmeno necessario essere in grado di tracciare le connessioni concrete tra le persone coinvolte in uno o più casi, anche se imputate insieme. Cinque mesi dopo, il 3 luglio 2012, diverse squadre della polizia hanno fatto irruzione a casa di una delle due persone coinvolte, solo per scoprire che in quel momento non si trovava in casa. Hanno rifiutato di spiegare al suo compagno di casa perché erano lì e non hanno fornito alcun dettaglio sulla ragione del raid. Dopo alcuni giorni è stata l'attivista stessa a richiedere presso una postazione di polizia la motivazione delle perquisizioni. È stata tratta in arresto e detenuta per circa 10 ore, in cui è stata interrogata ed infine accusata di reati di molestie e violazione di ingiunzione civile, uno per ogni membro del personale HLS presente durante la protesta. Nel frattempo anche la seconda imputata ha fatto ritorno in Inghilterra sapendo che era ricercata ed è stata arrestata il 13 gennaio 2013. Noi abbiamo fornito un po' un estratto di un brano che è abbastanza lungo, ma si capisce abbastanza evidentemente come l'utilizzo di una fattispecie, diciamo così, di reato, cioè lo stalking, in questo caso viene usata del tutto indebitamente per fondamentalmente censurare il diritto, la libertà di espressione e quindi anche la libertà di poter condurre delle manifestazioni, tra l'altro manifestazioni assolutamente legali, diciamo, per cui non avendo nessun altro mezzo per perseguire legalmente gli attivisti inglesi, la Shaq e HLS, con l'appoggio della classe politica inglese e della magistratura inglese, si è inventata a proprio beneficio un vero e proprio reato. Per qualsiasi persona che voglia saperne di più e voglia soprattutto contribuire alla campagna di supporto, può scrivere a antirepuc con la K finale @riseup.net. Il comunicato è firmato contro la repressione per la liberazione animale Stop UK Repression. Brain flow dead and away play. torniamo in diretta e quando sono le 22:56 torniamo in diretta per i saluti. Allora, dopo questa serata, innanzitutto dobbiamo ringraziare colui che ci scrive sempre un sacco di lettere, che ci chiama spesso in radio. Ringraziamo per, insomma, la lettera che ci ha mandato anche questa volta, e poi ringraziamo, insomma, tutti e tutte per averci ascoltato, e un saluto particolare. No, mi dicono di aspettare i contatti. I contatti, mamma mia. Scusate. Allora, i contatti, se volete scriverci, mandateci una mail a lagazzaladra@inventati.org. Oppure, se volete seguire sul blog le notizie che postiamo, oppure riascoltare questa fantastica trasmissione, radiopossum.noblogs.org. Oddio, detta così. Detto con questa voce radiofonica, specifica. Non è radiofonica, è orribile. Detto a tutti, nessuno leggerà più il no. Grazie, grazie. Vabbè, una trasmissione okay, buttata così, vabbè. Basta, al cesso, finita male. Va bene, salutiamo tutte e tutte, e in particolare chi è privato della propria libertà e personale, siano essi umani o non umani. Ciao. Ciao.